ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Emise un sospiro, scosse poi la testa come per riscacciar quel pensiero e vide venir l'oste col vino. Il compagno s'era messo a sedere in faccia a Renzo. Questo gli mesce subito da bere dicendo per bagnar le labbra e riempito l'altro bicchiere lo tracannò d'un sorso. «Cosa mi darete da mangiare?» disse poi all'oste. «Ho dello stufato, vi piace?» disse questo. «Sì, bravo, dello stufato». «Sarete servito», disse l'oste a Renzo e al garzone. «Servite questo forestiero» e s'avviò verso il cammino. Ma riprese poi tornando verso Renzo. «Ma pane non ce n'ho in questa giornata». «Al pane?» disse Renzo ad alta voce e ridendo. «Ci ha pensato la provvidenza!» E tirato fuori il terzo e ultimo di quei pani raccolti sotto la croce di San Dionigi, l'alzò per aria gridando «Ecco il pane della provvidenza!» All'esclamazione molti si voltarono e vedendo quel trofeo in aria uno gridò «Viva il pane! Viva il pane a buon mercato!» «A buon mercato!» disse Renzo. «Gratis et amore! Meglio, meglio!» Ma, soggiunse subito Renzo, non vorrei che lor signori pensassero a male. Non è che io l'abbia, come si suol dire, sgraffignato. L'ho trovato in terra. E se potessi trovare anche il padrone, son pronto a pagarglielo. Bravo, bravo! Gridarono sghignazzando più forte i compagnoni, a nessuno dei quali passò per la mente che quelle parole fossero dette davvero. Credono ch'io canzoni. «Ma è proprio così!» disse Renzo alla sua guida. E girando in mano quel pane soggiunse «Vedete come l'hanno accomodato? Pare una schiacciata! Ma ce n'era del prossimo! Se ci si trovavano di quelli che hanno l'ossa un po' tenere, saranno stati freschi!» E subito, divorati tre o quattro bocconi di quel pane, gli mandò dietro un secondo bicchiere di vino e soggiunse «Da sé non vuole andar giusto pane!» Non ho avuto mai la gola tanto secca, si è fatto un gran gridare. Preparate un buon letto a questo bravo giovine, disse la guida, perché ha intenzione di dormir qui. Volete dormir qui? Domandò l'oste a Renzo avvicinandosi alla tavola. Sicuro, rispose Renzo. Un letto alla buona, basta che i lenzuoli siano di bucato, perché son povero figliolo, ma avvezzo alla pulizia. Oh, in quanto a questo, disse l'oste. Andò al banco, che era in un angolo della cucina, e ritornò con un calamaio, un pezzetto di carta bianca in una mano e una penna nell'altra. «Cosa vuol dire questo?» esclamò Renzo, ingoiando un boccone dello stufato che il garzone gli aveva messo davanti e sorridendo poi con maraviglia soggiunse «È il lenzuolo di bucato, codesto!» L'oste, senza rispondere, posò sulla tavola il calamaio e la carta. Poi appoggiò sulla tavola medesima il braccio sinistro e il gomito destro e con la penna in aria e il viso alzato verso Renzo gli disse «Fatemi il piacere di dirmi il vostro nome, cognome e patria». «Cosa?» disse Renzo. «Ma cosa c'entrano con queste storie con il letto?» «Io fo il mio dovere», disse l'oste guardando in viso alla guida. «Noi siamo obbligati a render conto di tutte le persone che vengono ad alloggiare da noi, nome e cognome e di che nazione sarà, a che negozio viene, se ha seco armi, quanto tempo ad affermarsi in questa città, son parole della grida». Prima di rispondere Renzo votò un altro bicchiere, era il terzo, ed ora in poi ho paura che non li potremo più contare. Poi disse, avete la grida e io fo conto d'essere dottor di legge e allora so subito che caso si fa delle gride. Dico davvero, disse l'oste, sempre guardando il muto compagno di Renzo e andato di nuovo al banco ne levò dalla cassetta un gran foglio, un proprio esemplare della grida e venne a spiegarlo davanti agli occhi di Renzo. «Ah, ecco!» esclamò questo, alzando con una mano il bicchiere riempito di nuovo e rivotandolo subito, estendendo poi l'altra mano con un dito teso verso la grida. «Ecco quel bel foglio di messale! Me ne rallegro moltissimo, la conosco quell'arme! So cosa vuol dire quella faccia d'ariano con la corda al collo!» In cima alle gride si metteva allora l'arme del governatore e in quella di Don Gonzalo Fernandez de Cordova spiccava un remoro incatenato per la gola. Vuol dire quella faccia comanda chi può e ubbidisce chi vuole. Quando questa faccia avrà fatto andare in galera il signor Don... Basta, lo so io. Come dice in un altro foglio di messale, compagno a questo, quando avrà fatto in maniera che un giovane onesto possa sposare una giovane onesta che è contenta di sposarlo, allora le dirò il mio nome a questa faccia. Le darò anche un bacio per di più. Posso avere delle buone ragioni per non dirlo, il mio nome, oh bella. E se un furfantone che avesse al suo comando una mano d'altri furfanti, perché se fosse solo... E qui finì la frase con un gesto. Se un furfantone volesse sapere dove io sono per farmi qualche brutto tiro, domando io se questa faccia si muoverebbe per aiutarmi. Devo dire i fatti miei? Anche questa è nuova. Sono venuto a Milano per confessarmi, supponiamo. Ma voglio confessarmi da un padre cappuccino, per modo di dire, e non da un oste. L'oste stava zitto e seguitava a guardare la guida, la quale non faceva dimostrazione di sorta veruna. Renzo, ci dispiace il dirlo, tracannò un altro bicchiere e proseguì. Ti porterò una ragione, il mio caro oste, che ti capaciterà. Se le gride che parlano bene in favore dei buoni cristiani non contano, tanto meno devono contare quelle che parlano male. Dunque leva tutti questi imbrogli e porta invece un altro fiasco, perché questo è fesso. Così dicendo lo percosse leggermente con le nocca e soggiunse: senti, senti, oste, come crocchia. Anche questa volta Renzo aveva poco a poco attirata l'attenzione di quelli che stavano d'intorno. E anche questa volta fu applaudito dal suo uditorio. «Cosa devo fare?» disse l'oste guardando quello sconosciuto che non era tale per lui. «Via, via!» gridarono molti di quei compagni. «Ha ragione quel giovane! Sono tutte angherie, trappole, impicci! Legge nuova oggi! Legge nuova!» In mezzo a queste grida... Lo sconosciuto, dando all'oste un'occhiata di rimprovero per quell'interrogazione troppo scoperta, disse: «Lasciatelo un po' fare a suo modo, non fate scene». «Ho fatto il mio dovere», disse l'oste forte, e poi tra sé: «Ora ho le spalle al muro». E prese la carta, la penna, il calamaio, la grida e il fiasco vuoto per consegnarlo al garzone. «Porta del medesimo», disse Renzo, «che lo trovo galantuomo e lo metteremo a letto come l'altro, senza domandargli nome, cognome e di che nazione sarà e cosa viene a fare e se ha da stare un pezzo in questa città». «Del medesimo», disse l'oste al garzone dandogli il fiasco e ritornò a sedere sotto la cappa del cammino. «Altro che lepre», pensava, istoriando di nuovo la cenere. «E in che mani sei capitato, pezzo d'asino? Se vuoi affogare, affoga. Ma l'oste della luna piena non deve andarne di mezzo per le tue pazzie». Renzo ringraziò la guida e tutti quegli altri che avevano preso le sue parti. «Bravi amici», disse, «ora vedo proprio che i galantuomini si danno la mano e si sostengono». Poi, spianando la destra per aria sopra la tavola e mettendosi di nuovo in attitudine di predicatore, «Gran cosa!» esclamò. «Che tutti quelli che regolano il mondo vogliano fare entrare per tutto carta, penna e calamaio, sempre la penna per aria! Grande smania che hanno quei signori da adoprar la penna!» «Ehi, quel galantuomo di campagna! Volete saperne la ragione?» disse ridendo uno di quei giocatori che vinceva. «Sentiamo un poco», rispose Renzo. «La ragione è questa», disse colui, «che quei signori sono loro che mangiano l'oche e si trovano lì tante penne che qualcosa bisogna che ne facciano». Tutti si misero a ridere, fuorché il compagno che perdeva. «To», disse Renzo, «è un poeta costui. Ce n'è anche qui dei poeti, già ne nasce per tutto. No, una vena anch'io e qualche volta ne dico delle curiose, ma quando le cose vanno bene». Per capire questa baggianata del povero Renzo, Bisogna sapere che presso il Volgo di Milano e nel Contado ancora più, poeta non significa già come per tutti i galantuomini un sacro ingegno, un abitator di Pindo, un allievo delle muse. Vuol dire un cervello bizzarro e un po' balzano, che nei discorsi e nei fatti abbia più dell'arguto e del singolare che del ragionevole. Tanto quel guastamestieri del Volgo è ardito a manomettere le parole e a far dir loro le cose più lontane dal loro legittimo significato, perché vi domando io, cosa c'ha a che fare poeta col cervello balzano? «Ma la ragione giusta la dirò io», soggiunse Renzo. «È perché la penna la tengono loro, e così le parole che dicono loro volan via e spariscono. Le parole che dice un povero figliuolo stanno attenti bene e presto presto le infilzan per aria con quella penna e te le inchiodano sulla carta per servirsene a tempo e luogo. Hanno poi anche un'altra malizia, che quando vogliono imbrogliare un povero figliuolo che non abbia studiato ma che abbia un po' di... so io quel che voglio dire, e per farsi intendere andava picchiando e come arietando la fronte con la punta dell'indice. E se s'accorgono che comincia a capir l'imbroglio, taffete, buttan dentro nel discorso qualche parola in latino per fargli perdere il filo, per confondergli la testa, basta. Se ne deve smettere delle usanze, oggi a buon conto. Si è fatto tutto in volgare e senza carta, penna e calamaio. E domani, se la gente saprà regolarsi, se ne farà anche delle meglio. Senza torcere un capello a nessuno, però, tutto per via di giustizia. Intanto, alcuni di quei compagnoni si erano rimessi a giocare, altri a mangiare, molti a gridare. Alcuni se ne andavano, altra gente arrivava. L'oste badava gli uni agli altri, tutte cose che non hanno a che fare con la nostra storia. Anche la sconosciuta guida non vedeva l'ora di andarsene, non aveva, a quel che paresse, nessun affare in quel luogo, eppure non voleva partire prima d'aver chiacchierato un altro poco con Renzo in particolare. Si voltò a lui, riattaccò il discorso del pane e dopo alcune di quelle frasi che da qualche tempo correvano per tutte le bocche, venne a metter fuori un suo progetto. Se comandassi io, disse, lo troverei il verso di far andare le cose bene. Come vorreste fare? Domandò Renzo, guardandolo con due occhietti brillanti più del dovere e storcendo un po' la bocca come per star più attento. Come vorrei fare? Disse colui. Vorrei che ci fosse pane per tutti, tanto per i poveri come per i ricchi. «Ah, così va bene», disse Renzo. «Ecco come farei. Una meta onesta che tutti ci potessero campare e poi distribuire il pane in ragion delle bocche. Perché c'è degli ingordi indiscreti che vorrebbero tutto per loro e fanno a ruffa raffa, pigliano a buon conto e poi manca il pane alla povera gente. Dunque, dividere il pane. E come si fa? Ecco. Dare un bel biglietto a ogni famiglia in proporzione delle bocche per andare a prendere il pane dal fornaio. A me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma: Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie e quattro figliuoli, tutti in età da mangiar pane, notate bene, gli si dia pane tanto e paghi soldi tanti, ma a fare le cose giuste, sempre in ragion delle bocche. A voi, per esempio, dovrebbero fare un biglietto per il vostro nome? Lorenzo Tramaglino, disse il giovine, il quale, invaghito del progetto, non fece attenzione che era tutto fondato su carta, penna e calamaio e che, per metterlo in opera, la prima cosa doveva essere di raccogliere i nomi delle persone. Benissimo, disse lo sconosciuto, ma avete moglie e figliuoli? Dovrei bene, figliuoli no, troppo presto, ma la moglie, se il mondo andasse come dovrebbe andare. Ah, siete solo. Dunque abbiate pazienza, ma una porzione più piccola. È giusto, ma se presto, come spero e con l'aiuto di Dio, basta. Quando avessi moglie anch'io? Allora si cambia il biglietto e si cresce la porzione. Come v'ho detto, sempre in ragion delle bocche, disse lo sconosciuto alzandosi. Così va bene, gridò Renzo e continuò gridando e battendo il pugno sulla tavola. E perché non la fanno una legge così? Cosa volete che vi dica? Intanto vi do la buonanotte e me ne vo, perché penso che la moglie e i figliuoli m'aspetteranno da un pezzo. Un altro gocciolino, gridava Renzo, riempiendo in fretta il bicchiere di colui, e subito alzatosi e acchiappatolo per una falda del farsetto tirava forte per farlo sedere di nuovo. Un altro gocciolino, non mi fate questo affronto. Ma l'amico, con una stratta, si liberò e, lasciando Renzo fare un guazzabuglio di stanze e di rimproveri, disse di nuovo buonanotte e se ne andò. Renzo seguitava ancora a predicargli che quello era già in strada e poi ripiombò sulla panca. Fissò gli occhi su quel bicchiere che aveva riempito e, vedendo passare davanti alla tavola il garzone, gli accennò di fermarsi come se avesse qualche affare da comunicargli. Poi gli accennò il bicchiere e, con una pronunzia lenta e solenne, spiccando le parole in un certo modo particolare, disse: «Ecco, l'avevo preparato per quel galantuomo, vedete? Pieno raso, proprio da amico, ma non l'ha voluto. Alle volte la gente ha delle idee curiose. Io non c'ho colpa. Il mio buon cuore l'ho fatto vedere. Ora, già che la cosa è fatta, non bisogna lasciarlo andare a male». Così detto, lo prese e lo votò in un sorso. «Ho inteso», disse il garzone andandosene. «Ah, avete inteso anche voi», riprese Renzo. «Dunque è vero, quando le ragioni sono giuste». Qui è necessario tutto l'amore che portiamo alla verità per farci proseguire fedelmente un racconto di così poco onore a un personaggio tanto principale, si potrebbe quasi dire al primo uomo della nostra storia. Per questa stessa ragione di imparzialità dobbiamo però anche avvertire che era la prima volta che a Renzo avvenisse un caso simile, e appunto questo suo non essere uso a stravizi fu cagione in gran parte che il primo gli riuscisse così fatale. Quei pochi bicchieri che aveva buttati giù da principio, l'uno dietro l'altro, contro il suo solito, parte per quell'arsione che si sentiva, parte per una certa alterazione d'animo che non gli lasciava far nulla con misura, gli diedero subito alla testa. A un bevitore un po' esercitato non avrebbero fatto altro che levargli la sete. Su questo il nostro anonimo fa un'osservazione che noi ripeteremo, e conti quel che può contare. Le abitudini temperate e oneste, dice, recano anche questo vantaggio, che quanto più sono inveterate e radicate in un uomo, tanto più facilmente, appena appena se ne allontani, se ne risente subito, di modo che se ne ricorda poi per un pezzo, e anche uno sproposito gli serve di scuola. Comunque sia, quando quei primi fiumi furono saliti alla testa di Renzo, vino e parole continuarono ad andare l'uno in giù e l'altro in su, senza misura né regola. E al punto in cui l'abbiamo lasciato stava già come poteva. Si sentiva una gran voglia di parlare. Ascoltatori, o almeno uomini presenti che potesse prender per tali, non ne mancava, e per qualche tempo anche le parole erano venute via senza farsi pregare e si erano lasciate collocare in un certo qual ordine. Ma a poco quella faccenda di finire le frasi cominciò a divenirgli fieramente difficile. Il pensiero, che si era presentato vivo e risoluto alla sua mente, s'annebbiava e svaniva tutto a un tratto. E la parola, dopo essersi fatta aspettare un pezzo, non era quella che fosse al caso. In queste angustie, per uno di quei falsi istinti che in tante cose rovinano gli uomini, ricorreva a quel benedetto fiasco. Ma di che aiuto gli potesse essere il fiasco in una tale circostanza, chi a fior di seno lo dica? Noi riferiremo soltanto alcune delle moltissime parole che mandò fuori in quella sciagurata sera. Le molte più che tralasciamo disdirebbero troppo, perché non solo non hanno senso, ma non fanno vista d'averlo, condizione necessaria in un libro stampato. «Ah, oste, oste!» ricominciò accompagnandolo con l'occhio intorno alla tavola o sotto la cappa del camino, talvolta fissandolo dove non era e parlando sempre in mezzo al chiasso della brigata. «Oste che tu sei! Posso mandarla giù, quel tiro del nome, cognome, negozio, a un figliuolo par mio! Non ti sei portato bene? Che soddisfazione, che sugo, che gusto di mettere in carta un povero figliuolo! Parlo bene, signori? Gli osti dovrebbero tenere dalla parte dei buoni figlioli. Senti, senti, oste, ti voglio fare un paragone per la ragione. Ridono, eh? È un po' di brio, sì, ma le ragioni le dico giuste. Dimmi un poco, chi è che ti manda avanti la bottega? I poveri figliuoli, ne è vero? Dico bene? Guarda un po' se quei signori delle gride vengono mai da te per un bicchierino. Tutta gente che beve acqua, disse un vicino di Renzo. Vogliono stare in sé, soggiunse un altro, per poter dir le bugie a dovere. Ah, gridò Renzo, ora è il poeta che ha parlato. Dunque intendete anche voi altri le mie ragioni. Rispondi dunque, oste. E Ferrer, che è meglio di tutti, è mai venuto qui a fare un brindisi, a spendere un becco d'un quattrino? E quel cane assassino di Don... Sto zitto perché sono in cervello anche troppo. Ferrer e il padre so io. Sono due galantuomini, ma ce n'è pochi dei galantuomini. I vecchi peggio dei giovani, i giovani peggio ancora dei vecchi. Però sono contento che non si sia fatto sangue, oibò, barbarie, da lasciarle fare al boia. Pane! Oh, questo sì, ne ho ricevuti degli urtoni, ma ne ho anche dati, largo, abbondanza, viva! Eppure anche Ferrer, qualche parolina in latino, si è sbarao strapulorum, maledetto vizio. Viva! Giustizia! Pane! Ah, ecco le parole giuste. Là ci volevano quei galantuomini. Quando scappò fuori quel maledetto ton, ton, ton, e poi ancora ton, ton, ton, non si sarebbe fuggiti, beh, allora. Tenerlo lì, signor curato, so io a chi penso. A questa parola abbassò la testa e stette qualche tempo come... assorto in un pensiero. Poi mise un gran sospiro e alzò il viso con due occhi inumiditi e lustri, con un certo accoramento così svenevole, così sguaiato, che guai se chi ne era l'oggetto avesse potuto vederlo un momento. Ma quegli omacci, che già avevano cominciato a prendersi spasso dell'eloquenza appassionata e imbrogliata di Renzo, tanto più se ne presero della sua aria compunta. I più vicini dicevano agli altri «Guardate!» e tutti si voltavano a lui, tanto che divenne lo zimbello della brigata. Non già che tutti fossero nel loro buon senno o nel loro qual si fosse senno ordinario, ma per dire il vero, nessuno ne era tanto uscito quanto il povero Renzo, e per di più era contadino. Si misero or l'uno or l'altro a stuzzicarlo con domande sciocche e grossolane, con cerimonie canzonatorie. Renzo ora dava segno d'averselo per male, ora prendeva la cosa in scherzo, ora senza badare a tutte quelle voci parlava di tutt'altro. Ora rispondeva, ora interrogava, sempre a salti e fuori di proposito. Per buona sorte in quel vaneggiamento gli era però rimasta come un'attenzione istintiva a scansare i nomi delle persone, di modo che anche quello che doveva essere più altamente fitto nella sua memoria non fu proferito. Che troppo ci dispiacerebbe se quel nome per il quale anche noi sentiamo un po' d'affetto e di riverenza fosse stato strascinato per quelle boccacce, fosse divenuto trastullo di quelle lingue sciagurate. Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.